GR24, il sole 24 ore. Preso il killer di Denver, è un giovane di 24 anni, ha sparato sulla folla alla prima di Batman, 14 morti. In Spagna 15 arresti e 40 feriti, il bilancio di una nottata di contestazioni anti-austerity, borse giù in attesa dell'Eurogruppo. Accantonato l'accorpamento delle festività, il Consiglio dei Ministri vara però i criteri per la soppressione delle province. Sciopero dei mezzi pubblici a Roma, adesione del 38%, a Milano stop dalle 18 alle 22. GR24, ben ritrovati, buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione. In apertura gli aggiornamenti sull'ennesima strage americana. A Denver un uomo mascherato ha sparato sulla folla in un cinema. Ci sono diversi morti e feriti. Valentina Furlanetto. Sì, come dicevi, sono state uccise sul colpo 10 persone, 4 sono morte dopo essere state trasportate in ospedale. Una di loro era una bambina di 6 anni, i feriti sono una cinquantina. L'uomo che ha sparato è stato individuato, arrestato a 24 anni, come avete detto, è entrato nel cinema vestito di nero, giubbotto antiproiettile, con casco, occhialoni scuri, armato di 2 pistole e un fucile. Indossava una maschera antigas e a quanto sembra era quella, una maschera simile a quella del cattivo del film. Come testimonia anche uno spettatore scampato alla strage che ha caricato su YouTube un video amatoriale girato fuori dal cinema. Sentiamo. Premiere of The Dark Knight Rises in Aurora, Colorado. Ero alla prima del Cavaliere Oscuro, il ritorno, ad Aurora, in Colorado, al cinema Century 16. E c'è stata una seria sparatoria, con molte persone ferite, ci sono state anche delle vittime. Ho cercato di aiutare la gente ferita intorno a me. Io mi trovavo nella sala 8. La sparatoria c'è stata invece nella sala 9, dietro di noi. Il killer indossava una maschera antigas. C'erano moltissime persone, molti bambini, ragazzi molto giovani. È veramente bruttissimo quello che è accaduto. Nel video si vedono diverse ambulanze e la polizia che circondano il multisala. L'uomo che ha sparato ha prima lanciato un lacrimogeno, poi ha aperto il fuoco subito dopo il trailer. Le sue generalità non sono state diffuse né il movente, che per ora pare il gesto di un folle. Sembra anche che abbia agito da solo. La polizia che lo ha arrestato ha detto di avere esplosivi in casa e quindi gli agenti hanno perquisito il suo appartamento e per motivi di sicurezza il palazzo in cui si trova è stato sgomberato. Per ora è tutto. Grazie dunque Valentina Furlanetto, cambiamo argomento. Nuovi scontri in Spagna tra polizia e manifestanti scesi in piazza contro le misure di austerity del governo. Alla fine ci sono state 15 arresti e una quarantina di feriti. E oggi riunione dell'Eurogruppo, sul tappeto proprio il dossier degli aiuti a Madrid. Ne parliamo tra un attimo. Prima vediamo qual è la situazione sui mercati finanziari per quanto riguarda anche lo spread spagnolo, che oggi è risalito. Deborah Rosciani, ben ritrovata. Sì, buongiorno anche a voi. Effettivamente il nervosismo della piazza spagnola si trasferisce anche sui mercati, perché il differenziale Germania-Spagna sulla scadenza a 10 anni si è attestato a 593 punti base, nuovo record di sempre, con il rendimento del bonus, il decennale spagnolo, sopra il 7%. Questo ha portato anche ad un ampliamento dello spread fra il Bund e il BTP italiano, sopra 490 punti base, quindi nuovo aumento rispetto a ieri, e quindi il rendimento sulla scadenza decennale italiana vale al momento il 6,08%. Questa situazione ha portato ad una improvvisa accelerazione verso il basso delle borse europee, che erano partite negative ma in maniera prudente. Adesso Milano perde addirittura il 2,29%, naturalmente con un calo fortissimo di tutte le banche. Popolare dell'Emilia Romagna meno 6, Banco Popolare meno 4,43, meno 4 per Generali, Intesa meno 3,5 punti per Unicredit, UbiBanca e via andando. In positivo abbiamo un solo titolo in questo momento, è Assorin, che guadagna lo 0,9%. Le altre piazze: Parigi meno 0,7, Francoforte meno 0,23, Londra meno 0,52, giù anche l'euro sul dollaro a 1,2234. È tutto. Grazie anche a te Deborah, e come dicevamo oggi riunione dell'Eurogruppo, ci colleghiamo con Bruxelles dove c'è Antonio Poglio Salimbeni, buongiorno. Buongiorno a voi. Quali sono i nodi sul tavolo di questa riunione dei ministri economico-finanziari dell'area euro, che dovranno parlare soprattutto di Spagna? Effettivamente sì, è proprio la Spagna, è il via libera al finanziamento europeo per aiutare il governo spagnolo a ricapitalizzare le banche deboli. Si tratta di un prestito fino a 100 miliardi di euro e la novità è che se questa somma non sarà utilizzata tutta per le banche, il governo spagnolo potrà utilizzarla per l'acquisto di titoli obbligazionari pubblici sul mercato primario o secondario, a patto che siano negoziate delle condizioni per usare questi fondi. La novità sta nel fatto che non ci sarebbe un'altra decisione politica a 17 e in qualche paese come Germania e Finlandia nei rispettivi parlamenti sulla somma di denaro che potrebbe essere utilizzata. Grazie per il momento da Bruxelles, Antonio Poglio Salimbeni. Ma dicevamo, notte di protesta in Spagna, 15 arresti, 40 feriti per gli scontri tra polizia e manifestanti. Oltre ai precari, questa volta la protesta riguarda anche la classe media. Ecco chi sono i nuovi indignados. Professori, medici, poliziotti, pompieri, postini. Sono i dipendenti statali, i nuovi indignados, scesi in piazza nelle principali città spagnole per protestare contro le misure di austerity decise dal governo. Soppressione della tredicesima e di parte del sostegno ai disoccupati, riduzione di ferie e permessi oltre all'aumento dell'IVA. Mani in alto, questo è un assalto, lo slogan divenuto ormai un grido di battaglia nei diversi cortei in cui è diventato protagonista la classe media. I dipendenti pubblici spagnoli guadagnano in media tra i 1.000 e i 2.500 euro al mese. I loro stipendi negli ultimi due anni sono stati tagliati tre volte, l'ultima la settimana scorsa a meno 7%. E a Natale non prenderanno la tredicesima. Intanto il loro potere d'acquisto continua a calare. L'IVA è salita dal 18 al 21%. La bolletta della luce costa 36 euro in più al mese. Le tasse universitarie dei figli sono cresciute del 50% e l'assistenza sanitaria per gli anziani è stata tagliata. Siamo al limite, ci stanno togliendo tutto, abbiamo toccato il fondo, si legge sugli striscioni della protesta. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo in Italia, riunione del Consiglio dei Ministri. Oggi, a quanto si apprende, l'esecutivo ha affrontato l'ipotesi di una razionalizzazione delle festività, ma non ha deciso di procedere al momento. Invece la riunione avrebbe dato il via libera ai criteri per l'accorpamento delle province, una notizia che era attesa, una notizia importante, e vedremo più avanti quali sono i dettagli di questo accorpamento delle province. Intanto sentiamo un passaggio dell'intervento del Premier Mario Monti, che ha confermato non c'è necessità di altre manovre economiche. Vorrei assicurare che non abbiamo nessuna intenzione di fare nuove manovre. Siamo sulla via programmata per il conseguimento degli obiettivi di bilancio e non vi è dunque l'esigenza di nuove manovre. E ora invece alla cerimonia del ventaglio tradizionale con il capo dello Stato Giorgio Napolitano. Ci colleghiamo con il nostro Vincenzo Miglietta. Buongiorno Vincenzo. Sì, buongiorno. Durata del suo mandato, crisi economica, necessità di una maggiore coesione nazionale ed ancora le polemiche sulla presunta trattativa Stato-mafia e la decisione del Quirinale di ricorrere alla consulta, tanti temi affrontati dal capo dello Stato nel suo intervento in occasione della cerimonia del ventaglio, tradizionale incontro con la stampa parlamentare prima della pausa estiva. Partiamo allora proprio dal tema delle intercettazioni che indirettamente hanno coinvolto il Presidente della Repubblica. Contro di me speculazioni miserrime, non ho nulla da nascondere, dice Napolitano. Sentiamo questo passaggio. La decisione che nei giorni scorsi ho preso di sollevare un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale è stata dettata fuori di qualsiasi logica di scontro dal dovere di promuovere un chiaro pronunciamento nella sola sede idonea su questioni delicate di equilibri e prerogative costituzionali. Non ho nulla da nascondere, ma un principio da difendere, di elementare garanzia della riservatezza e della libertà nell'esercizio delle funzioni di capo dello Stato. Continuerò a non cedere ad alcuna tentazione di discorsi facili e di confortevoli opportunismi, dice ancora Napolitano, che difende quindi il suo mandato. Non mi sono mai allontanato neanche di un millimetro da quanto previsto dalla Costituzione. Guardando poi al futuro, il capo dello Stato ha auspicato che si confermi lo spirito di coesione nazionale degli ultimi mesi, che si metta a mano alla riforma elettorale, poi una conferma, lavorerò fino al termine del mio mandato. E da Roma è tutto. Grazie anche a Vincenzo Miglietta. Avete sentito le parole del capo dello Stato. Intanto Nuovi particolari emergono nell'inchiesta sulla presunta estorsione di Dell'Utri a Berlusconi, subito dopo il versamento di oltre 15 milioni di euro da un conto corrente del Cavaliere ad un altro intestato a Miranda Anna Ratti, moglie di Dell'Utri. 11 milioni sono stati spostati da lì ad un altro conto in una banca a Santo Domingo. È quanto emerge dall'indagine avviata dalla Procura di Palermo a carico di Dell'Utri. Negli ultimi 12 anni Berlusconi avrebbe versato 40 milioni di euro a favore dell'amico e collaboratore. Ora parliamo di Rossella Urru, la cooperante italiana rientrata ieri sera in Italia dopo 9 mesi di prigionia. È stata ascoltata oggi in procura a Roma. Secondo alcune indiscrezioni, per il rilascio sarebbe stato pagato un riscatto. Si è presentata al Palazzo di Giustizia di Roma poco prima delle 9 di questa mattina, accompagnata da due persone. Il suo primo giorno in Italia dopo la liberazione, Rossella Urru lo ha iniziato rispondendo per 3 ore alle domande degli inquirenti sui vari passaggi del suo rapimento. Sequestrata lo scorso ottobre in Algeria e liberata 2 giorni fa in Mali, la cooperante sarda ieri sera è rientrata a Roma e all'aeroporto di Ciampino ha potuto riabbracciare i suoi genitori. «Sto bene e spero di poter tornare in Africa», ha detto la ragazza. Con il passare delle ore emergono nuovi particolari sulla sua liberazione e su quella dei 2 spagnoli sequestrati con lei. Un portavoce del gruppo integralista islamico che ha rivendicato il sequestro ha fatto sapere che il loro rilascio è arrivato dopo il pagamento di un riscatto di 15 milioni di euro e la liberazione di un membro del gruppo detenuto in Mauritania. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ora notizia che riguarda la scuola: alunni più bravi al nord e al centro rispetto al sud. Così il quadro dei ragazzi delle scuole italiane che emerge dal Invalsi 2012 con punte al nord al di sopra della media nazionale. È quanto risulta dal rapporto del Servizio Nazionale di Valutazione presentato questa mattina per i ragazzi di elementari, medie e superiori. 2.850.000 gli alunni coinvolti. Dall'analisi emerge anche che in generale le ragazze conseguono risultati migliori in italiano e peggiori in matematica rispetto ai ragazzi. Oggi sciopero dei mezzi pubblici e cominciano a farsi sentire gli effetti, soprattutto a Roma, metropolitana chiusa A, linea A, e metropolitana linea B con servizio ridotto. Lo sciopero a Roma si è concluso, l'adesione secondo l'ATAC è stata del personale pari al 38%. E invece a Milano lo stop è atteso dalle 18 alle 22, a Napoli dalle 9.30 fino alle 13.30, quindi ancora pochi minuti, poi lo sciopero sarà finito a Napoli. Era l'ultima notizia, è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Roberto Scaltetti in regia, vi augurano buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.